nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. minuti 15 secondi, buona giornata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'attualità internazionale. In redazione ci sono Nadia Zammitti, Miriam Lucchetti, in regia c'è Valeria Bernardi. Vi ricordo gli sms al 349-238-6666 e poi commenti, domande, suggerimenti su Facebook, nessun luogo lontano, trattino Radio 24, oppure cinguettate sintetici, Twitter, nessun luogo 24, oppure Jumpaz. E infine, se volete dire la vostra sui temi che tratteremo quest'oggi, 800-24-00-24, prenotate il vostro intervento fin da ora, ci sarà, speriamo, spazio. Nell'ultima parte di questo programma iniziamo andando in Turchia. Joy and jubilation on the streets of Ankara as supporters of Recep Tayyip Erdogan celebrated his victory as Turkey's first ever directly elected president. Sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Zira asıl konuşmamı Ankara'da genel merkezimizde yapacağım. E così state sentendo la celebrazione, in realtà del tutto aspettata, ne avevamo dato conto pure noi nella puntata speciale di venerdì dedicata a queste storiche elezioni in Turchia. Erdogan è stato riconfermato alla presidenza col 51,8% dei voti e ha detto, lo avete sentito dalla sua viva voce, chi parla turco l'avrà capito, sarò presidente di tutti. Di nuovo un giorno Alberto Tetta, ben ritrovato Alberto. Eccolo, Alberto Tetta in diretta da Istanbul, giornalista freelance, scrive per TM News e osservatore Balcani e Caucaso, fra gli altri. Allora, prima domanda Alberto, pronostici rispettati dunque, oppure c'è stata qualche sorpresa? Magari le percentuali dei due sfidanti hanno colto di sorpresa qualche analista, cosa dici? Sì, il primo ministro turco, secondo le previsioni, è riuscito a vincere, come sappiamo, il primo turno con il 51,7%, insomma parlo di Recep Tayyip Erdogan, un risultato che però è rimasto sotto le aspettative della vigilia, infatti prima del voto quasi tutti i sondaggi lo davano tra il 54 e il 57%, comunque diciamo che il suo obiettivo, quello di essere eletto al primo turno, è stato raggiunto. Alberto, alcuni giornali hanno scritto che questo inizio di svolta presidenziale, perché poi bisognerà vedere le prossime elezioni nel 2015 se non erro, è vero che Erdogan ha tranquillizzato tutti dicendo ripartiamo da zero, una nuova Turchia eccetera, un discorso abbastanza ecumenico, però alcuni puntano il dito dicendo in realtà la Turchia ha da tempo preso una strada più conservatrice, una strada che si è allontanata dal laicismo che l'aveva contraddistinta e quindi in buona sostanza si sta allontanando da l'Europa. Lì a Istanbul che termometro ci puoi restituire? Sì, secondo me più che la questione religiosa, il rischio fondamentalismo, che non mi sembrano davvero credibili, però il problema e il rischio che effettivamente c'è è che questa ennesima svolta, questa riconferma di Erdogan, che ha annunciato già da tempo che di essere intenzionato a rivedere l'assetto istituzionale con una riforma in senso presidenzialista, porti con sé anche in una Turchia dove il leader carismatico ha sempre più forza, allo stesso tempo più potere, c'è il rischio che ci sia una svolta di tipo, diciamo, autoritario nella politica di Recep Tayyip Erdogan, già sottolineato e di cui si è già parlato durante la repressione delle manifestazioni seguite allo sgombero del Parco Gezi la scorsa estate. Sì. E tra l'altro l'OSCE nel suo report sulle elezioni anche che comunque si sono svolte in maniera corretta, ha comunque evidenziato una poca indipendenza dei media turchi nel coprire gli eventi e preoccupazione per la condizione dei giornalisti, quindi un ennesimo segnale che il percorso, il processo di democratizzazione che Erdogan rivendica sempre con grande forza negli eventi pubblici anche durante questa campagna elettorale forse non è completo. Sì. Alberto, l'ultima domanda prima di lasciarti al tuo lavoro: hai accennato al fatto che gli osservatori hanno dichiarato le elezioni regolari, c'è odore di contestazione da parte degli altri due candidati sconfitti oppure? No, per ora no, è già stata solo il leader del principale partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, Kemal Kılıçdaroğlu, ha appunto denunciato che la campagna si è svolta in maniera non equa, non è stata data ai candidati la possibilità di esprimersi in maniera, nello stesso spazio per esempio ai candidati nella televisione pubblica eccetera, però per ora non ci sono messi in discussione di questo risultato. Grazie mille Alberto Tetta, giornalista freelance da Istanbul, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi. Allora, questa era la brevissima pagina turca, perché dopo lo speciale di venerdì volevo appunto riannodare le fila di quella che era stata la lunga discussione che abbiamo avuto con i nostri ospiti, i nostri esperti. Chiusa la pagina turca, adesso ancora una volta l'Iraq richiede la nostra attenzione. Militants from the Islamic State group have seized Qarakosh, the biggest Christian town in Iraq. It's thought that some 200,000 people have fled fighting there in recent days. Meanwhile, bombs went off in the capital and the oil town of Kirkuk, killing dozens. And we can speak live now to Richard Becker from the Answer Coalition. Thanks for just taking the time to join us, Richard. The militants, they've already seized a handful of towns in just the last 24. Allora, tutti i grandi network internazionali stanno seguendo ovviamente la situazione irachena, che è in continuo e velocissimo divenire. Sono tre fondamentalmente i fronti. Allora, da un lato abbiamo l'avanzata ISIS sul terreno, che nonostante i raid americani ancora minaccia parecchie città, non solo curde ma anche a questo punto irachene. Dall'altro abbiamo ovviamente la diplomazia internazionale, che si sta muovendo per il momento soprattutto con dichiarazioni, perché gli Stati Uniti sono lì a fare appunto i primi raid, ma vediamo meglio l'Europa come sta rispondendo. E poi abbiamo il fronte interno iracheno, che se possibile aggiunge caos nel caos, perché nelle ultime ore al-Maliki aveva schierato tutte le sue forze attorno alla zona verde a Baghdad e aveva praticamente sfidato il presidente Massoum. Nel frattempo la principale coalizione dei partiti sciiti ha investito al-Abadi come prossimo premier. Vi daremo conto della situazione interna, di quello che sta accadendo a Baghdad, in quello che all'inizio sembrava quasi il tratteggio di un possibile colpo di Stato. Siamo qua con l'occhio buttato sulle agenzie. Vi dicevo però come sta reagendo l'Europa e non solo di fronte a questa crisi umanitaria. Avete sentito i numeri, sono incredibili, almeno 200.000 cristiani e altre minoranze che sono in fuga dalle città prese da ISIS. Do il mio buongiorno e benvenuto a Lapo Pistelli, Vice Ministro agli Esteri. Vice Ministro, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno. Allora, leggo dalla stampa di questa mattina, la stampa italiana, che state pensando a punti umanitari e da circa 1 milione di euro. Questa è la prima domanda che vorrei farle. Mi conferma la cifra e mi conferma l'operazione? No, questo è quello che abbiamo già fatto. Stiamo adesso pensando da stamani a eventualmente a cose altre aggiuntive che debbano tener conto di come la situazione si sviluppa sul campo e di quali sono le necessità, perché io sono tornato da lì da poco e almeno nel Kurdistan il tema non era la disponibilità di risorse umanitarie, che strano a dirsi, ma rispetto a altri luoghi, ad esempio Gaza, dove c'è un gap ancora formidabile fra generosità dei donatori e necessità di prima emergenza, nel Kurdistan la prima necessità è coperta. Per cercare di capire che succede, perché altrimenti capisco che le informazioni diventano frammentate, il tema non riguarda il Kurdistan in questo caso, per quanto riguarda i beni umanitari, ma riguarda la capacità di raggiungere in Iraq, quindi fuori dai confini del governo regionale curdo, le enclave dove le minoranze sono rimaste intrappolate. Tutti abbiamo in mente, negli occhi, le immagini degli yezidi sulle montagne di Sinjar. Sì. Per quel tipo di operazione serve un'altra cosa, che non è l'allestimento dei campi che abbiamo già fatto nel corso degli ultimi 2 anni per gli sfollati siriani, 250.000, e l'allestimento di rifugi di emergenza per quelli che stanno arrivando adesso dalla parte dell'Iraq, dalla piana di Ninive, ma cosa riusciamo ad allestire in termini di ore e di giorni per quelli che sono ancora intrappolati nelle enclave. E lì in questo caso si parla di aiuti da lanciare via paracadute da aereo, sì, perché si tratta di minoranze che sono, ripeto, in questo momento non raggiungibili per via terra, e in attesa che l'iniziativa anche militare dei Peshmerga con l'aiuto americano apra dei veri e propri corridoi di fuga, si tratta di tenerli vivi. Vice Ministro, i curdi vi hanno chiesto rifornimenti di armi, vi hanno chiesto armi? Ci hanno chiesto di poter essere aiutati nella loro autodifesa, che tradotto vuol dire sì, ci hanno chiesto di poter essere armati o manutenuti, quindi avere munizioni. È una cosa che hanno richiesto esplicitamente, non è una cosa coperta, è una cosa che stamani mattina è stato oggetto di una prima riunione qua in Farnesina insieme ai vertici della difesa, perché ovviamente ogni ipotesi di munizionamento e ogni ipotesi di fornitura di armi, come voi potete immaginare, è sottoposta a una serie di vincoli e procedure sia in sede nazionale che in sede europea. Nel caso, Vice Ministro, che tipo di armi o munizioni potrebbe l'Italia rifornire? Diciamo così, non mi faccia fare l'esperto del poligono di tiro. Diciamo che in questo momento i Peshmerga sono guerrieri di montagna che portano a tracollo mitragliatore e quindi sono armi leggere, mentre ISIS si è mosso nelle ultime settimane innanzitutto con molti mezzi, Humvee molto nuovi, non i vecchi pick-up africani che tutti conoscono, sì, ma degli Humvee nuovi, e hanno fatto uso di artiglieria, quindi di materiale più a lunga gittata, che infatti è quello che nei siti che tutti hanno potuto vedere, nei siti di notizie, gli americani hanno cercato di eliminare al suolo tramite interventi dal cielo, perché chiaramente quello rende il fronte asimmetrico. Noi saremo in condizione di fare qualche cosa, ma ci stiamo coordinando innanzitutto con gli americani, ci stiamo coordinando con i francesi, rispetto ai quali assieme abbiamo chiesto la convocazione straordinaria di un consiglio affari esteri dedicato all'Iraq e alle altre due emergenze, Siria e Gaza. Ovviamente non si tratta di, diciamo, è una procedura tutta diversa rispetto a quella per cui su base bilaterale si possono stanziare aiuti di emergenza. Certo, quindi insomma mi sembra di capire che si tratta di armi pesanti e non ovviamente non il semplice Kalashnikov, quello insomma i Peshmerga ce l'hanno già, ho capito bene? Sì, munizioni per farli funzionare innanzitutto, però, perché anche i Kalashnikov hanno quello che hanno munizioni in esaurimento. Però attenzione, mettiamoci d'accordo su che vuol dire armi pesanti, no, vuol dire semplicemente, innanzitutto noi non disponiamo di tutto quello di cui uno potrebbe immaginare, secondo, e quindi questo magari semmai lo faranno altri se è coerente con le loro procedure, con le loro regole e con i loro impegni politici. È per questo che abbiamo chiesto anche all'Europa di discutere, nel senso che noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo politicamente dato il sostegno all'intervento americano e riteniamo, politicamente parlando, che l'iniziativa di solidificazione e consolidamento di un califfato jihadista sotto guida di Daesh, di ISIS, insomma secondo gli acronimi, a seconda, sì, di come lo vuole chiamare, sia un fatto che spacchetta la carta geografica del Medio Oriente e dunque non è sostenibile. Dopodiché le iniziative le stabiliamo insieme con gli altri. È chiarissimo. Avete già pensato a un budget? Se il budget per gli aiuti umanitari è di circa 1 milione di euro, quello per gli aiuti invece bellici quanto potrebbe essere per l'Italia? Non lo so, ma va trovato nella copertura del decreto missioni che il Parlamento avrà in esame alla riapertura dopo agosto. Quindi è coperto all'interno del decreto missioni. Poi sul quantum no, anche perché rispetto al tema del quantum c'è bisogno di capire quali sono le necessità vere, cioè voglio dire, questo varrebbe anche per l'acqua o le tende, non è che uno porta quello che ha, dice ma quante, dice io vi porto 2000 tende, vanno bene, cioè non è che siamo al mercato dei tappeti, poi le cose vanno allestite. E quindi anche la richiesta formale politica, il governo curdo l'ha già fatto, l'ha fatta con me quando ci siamo incontrati e l'ha ribadita ad altri visitatori. Noi dobbiamo guardare che cosa l'Italia potrebbe fare, confrontare quello che potremmo fare noi, possono fare gli altri e confrontarlo con le necessità della difesa curda. Stiamo parlando di garantire un diritto alla difesa, non stiamo parlando di nessuna invasione, di partecipazione diretta o roba del genere, per essere molto chiari. Sì. Che fra l'altro insomma, rispetto alla quale anche gli Stati Uniti se ne guardano bene. È ipotizzabile, Vice Ministro, un contributo italiano ma non europeo? Cioè mi spiego, se a un certo punto la Francia fa marcia indietro, la Gran Bretagna continua a tenere il freno a mano tirato, è possibile un affiancamento solamente italiano? No, è ipotizzabile che ci sia più di un paese europeo ma non tutti gli europei. Io penso da questo punto di vista che se un po' di naso sia i partner inglesi che francesi faranno qualcosa, anzi forse faranno anche qualcosa più di noi a dire il vero. Troverei poco credibile immaginare che 28 paesi europei fanno qualcosa, ma comunque sia quelle decisioni che anche Roma, Parigi o Londra dovessero adottare devono essere ricondotte a una riflessione politica che l'Europa fa tutta insieme. Sì. Vice Ministro, una domanda più generale sull'atteggiamento internazionale rispetto a questa crisi. Trova vi sia stato troppo attendismo? Ma guardi, ogni volta che le cose girano al peggio, la prima domanda che ci si fa sempre è: ci siamo svegliati troppo tardi? Se lei lo chiede a me, in versione di non governativa, non istituzionale, ma come persona che studia queste cose da un po' di tempo, le dico che c'è stato un ritardo di analisi delle istituzioni in generale. Io ho visto come ad esempio si è fatto molta fatica anche nelle conferenze diplomatiche a trovare la diversa strategia che animava Jabhat al-Nusra in Siria e ISIS, quanto i primi jihadisti pure loro però lavorassero per rovesciare Bashar a Damasco e quanto i secondi incrociassero spesso ferri e lame con i primi ma avessero un loro disegno che andava bene al di là di Baghdad. Infatti sviluppando semplicemente l'analisi della mappa sul territorio si vede come i punti di attacco e di conquista progressiva di ISIS sul territorio seguono in modo pedisseco i confini dei due fiumi Tigre e Eufrate, cioè si candidano sostanzialmente a conquistare la Mesopotamia. Che poi la Mesopotamia passi attraverso due diversi paesi è un dettaglio, si tratta di controllare una zona ricca, fertile, strategica e controllando l'acqua e magari le dighe, da qui le immagini di ISIS che festeggia la conquista della diga di Mosul, si è capaci di poter controllare anche un territorio molto più vasto di quello effettivamente controllato. Sì. Io penso che ci sia stato un ritardo di analisi o almeno di link fra analisi e azione. Credo che ci sia una giustificazione a tutto questo, cioè il fatto che quando ISIS è sconfinata in modo imponente in Iraq, prima nella provincia di Anbar e poi a Mosul, il governo iracheno era sostanzialmente sospeso e non è che la comunità internazionale può estendere una propria tutela su Baghdad senza che Baghdad lo sappia, e quindi il ritardo di Baghdad si è tradotto in un ritardo della comunità internazionale. Da qui la pressione robusta che anche in queste ore continua e continua in questo caso ad esempio congratulandosi col nuovo premier incaricato in modo tale che non ci possano essere o sperando che non ci possano essere dei colpi di coda da parte di chi è rimasto deluso dalla propria mancata designazione. Questo serve perché qualsiasi anche iniziativa che passa, che è rivolta al Kurdistan, deve comunque passare anche attraverso Baghdad. C'è un dato da non dimenticare mai, cioè esiste sicuramente un'aspirazione di lungo periodo di Erbil di raggiungere una propria indipendenza e autonomia, però non è così la realtà, della realtà di oggi. Dunque quel governo non può essere aiutato bilateralmente senza che Baghdad sia coinvolta, e perché coinvolta sia Baghdad c'è bisogno che ci sia un governo a Baghdad. Ecco, quindi voi capite che le due cose sono strettamente correlate. Certo, chiedo scusa, però intanto anticipa quella che è la mia ultima domanda. Quanto la preoccupa il caos che potrebbe svilupparsi a Baghdad proprio in queste ore? Ma guardi, a me ha preoccupato molto il vuoto, anche in questo caso purtroppo ne capisco la ragione, ma l'informazione accende e spenge riflettori su questa e quella capitale a seconda dei palinsesti. Il giorno in cui io sono stato a Baghdad, che è 4 giorni fa, durante quel giorno di permanenza ci sono stati 5 attentati e 30 morti, sì. 5 autobombe e 30 morti, e questo purtroppo è un bollettino che va avanti dall'inizio dell'anno. Sono stati soltanto 2000 morti, i morti di luglio in Iraq, e circa un centinaio di cadaveri abbandonati trovati dentro nella capitale, che è vasta, che è popolosa, ma dà l'idea di una caduta della sicurezza verticale. A fronte di questo, meno male che la Costituzione stabiliva un termine che scadeva ieri, ed è un termine che, dopo che i curdi avevano positivamente individuato Mazum come candidato presidente eletto e i sunniti avevano individuato lo speaker eletto, toccava agli sciiti designare un candidato. Voi sapete che l'Iraq, nonostante questa appartenenza confessionale, vede poi un pluralismo politico all'interno di ciascuna confessione, e dunque anche gli sciiti hanno avuto una loro dinamica interna che ha portato Maliki a resistere fino a ieri, fino a quella sorta di minaccia che lei prima traduceva in un rischio di colpo di Stato, comunque una pressione con proprie unità militari. Eh sì, perché ha schierato... Ma che insomma è stato, secondo me, positivamente superato dal fatto che il partito, il Dawa, ha espresso Haider al-Abadi, che è l'attuale vicepresidente della Camera, ma per capirsi parliamo di una persona che ha una esperienza tutt'altro che banale, è stato vice speaker nel 2014, vicepresidente della Commissione Finanze nel 2011, presidente di commissione per altri anni e consigliere politico di Jafari, primo ministro nel 2005, quindi un uomo di grande esperienza. E lo ha fatto proprio per far capire a Maliki, dopo anche i cordiali avvisi di al-Sistani, dell'Ayatollah al-Sistani, che era il caso di desistere. Io credo che rafforzare la designazione di al-Abadi con un incoraggiamento politico, Mazum lo ha già incaricato di formare il nuovo governo, sia un modo per avere a Baghdad non soltanto un governo, ma un governo di unità nazionale, cioè un governo consensuale, sì. Perché è la precondizione per poter ristabilire una unità che altrimenti rischia di andare in frantumi. Che sì, è quella, la non unità è stata un po' la storia, è stata segnata, la storia dell'Iraq degli ultimi anni è stata segnata proprio da questa grande difficoltà nel far confluire le diverse anime. Allora, grazie mille al viceministro Lapo Pistelli, viceministro agli esteri, se ho ben capito, insomma, domani mattina in sede europea potrà uscire qualche altra decisione e o notizia riguardante la crisi irachena. Grazie, buona giornata, buon lavoro, viceministro. Allora, abbiamo un minuto prima di dare l'informazione finanziaria, abbiamo il tempo di ascoltare la voce di Monsignor Bashar Mati Warda, arcivescovo caldeo di Erbil, appunto Kurdistan iracheno, che abbiamo raggiunto pochi minuti fa. A lui ho chiesto com'è la situazione in questo momento nella capitale. La situazione a Erbil è drammatica, dice l'arcivescovo, si tratta di una vera tragedia per le persone che stanno fuggendo alle violenze e alle minacce dell'ISIS. Come voi sapete già tutti, i cristiani dei villaggi tra Zidit e Shabat sono stati costretti a lasciare le loro case, camminando a lungo prima di raggiungere un riparo. Nella sola cittadina di Ankawa sono arrivate 17.000 profughi che sono stati raccolti in 16 centri, ciascuno dei quali accoglie dai 300 ai 6.000 profughi. Quindi la situazione che stanno vivendo è seriamente drammatica. From 300 individuals up to 5 individuals, 6,000 individuals in some of the centers. So it's a very tragic situation, really. Nessun luogo è lontano. L'avanzata dell'ISIS, la crisi umanitaria, l'Iraq e il Kurdistan al centro di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 349-238-6666, scusate, gli sms, Nessun Luogo 24, oppure Jumpaz Twitter. E alcuni mi sollecitano, anzi provocano, dicendo: incoraggiamento, tra virgolette, sono le parole che ha pronunciato il vice ministro Lapo Pistelli, incoraggiamento al nuovo governo iracheno, incoraggiamento, cioè, al di fuori, insomma, leggendo tra le righe, il linguaggio diplomatico, bisogna avere un interlocutore. Sono d'accordo con quello che dice il vice ministro, se anche il governo iracheno non è più un attore attendibile perché si avvolge su se stesso, sulle loro beghe interne, passatemi il termine, e allora non si può certamente pensare a un'azione militare. Bisogna assolutamente passare per loro, e quindi ci vuole un interlocutore riconosciuto dalla comunità internazionale. Credo che il vice ministro intendesse proprio quello. E poi al 349-238-6666 c'è chi dice: sono questioni regionali, abbiamo ben altri problemi come la nostra economia a cui pensare, armi e denaro, fa eco un altro ascoltatore, non serviranno a nulla. L'Occidente manca una bandiera, manca un Riccardo Cuor di Leone, un Federico Barbarossa che possa condurre questa crociata. L'Occidente ha già perso il suo obiettivo, che è solo quello di difendere i pozzi, inteso di petrolio. Allora, torniamo sul terreno. Vi dicevo, da poco sentito l'arcivescovo di Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, Monsignor Bashar Mati Varda. A proposito dell'intervento della comunità internazionale, gli ho chiesto che cosa pensa dell'intervento aereo di questi raid americani. Sentite. E dice: è un po' tardi, ma era necessario. Meglio tardi che mai, del resto. L'esercito iracheno ha dimostrato di essere al collasso, le forze stanno cedendo e i peshmerga, i combattenti curdi, hanno seriamente bisogno di molto aiuto, perché le loro armi e munizioni non sono in grado di fermare né di competere con l'artiglieria utilizzata da ISIS nella sua avanzata. Per difendersi in questo caso e per fermare ISIS occorre un esercito professionale, tecnologicamente avanzato, che intervenga subito. A dispetto di quello che diceva il vice ministro Lapo Pistelli, che in qualche modo smussava i contorni dell'emergenza umanitaria, dice: rispetto ad esempio alla crisi umanitaria in Gaza, qui non siamo a quel livello. Probabilmente è vero, però all'arcivescovo di Erbil abbiamo chiesto se Erbil sia preparata per accogliere un alto numero di rifugiati. No, Erbil is not prepared because, as you may know, the flood of the No, dice, Erbil non è pronta per avere così tanti rifugiati, perché nel flusso di gente in fuga non ci sono solo cristiani, ad esempio, ma anche yazidi e altre minoranze. Tutte queste minoranze sono state costrette a spostarsi e il governo iracheno ha imposto un embargo in Kurdistan che ha causato la riduzione di tutti i servizi essenziali. Non dimentichiamo che il Kurdistan ha accolto il fronte di rifugiati siriani negli ultimi mesi, per cui riuscire ad accogliere tutti è un'impresa enorme, per nulla semplice al momento. So many Syrian refugees before this time. So it's really a big and massive operation. It's not an easy task. Altra domanda: che cosa chiede alla comunità internazionale? We ask them for support to put pressure. Chiediamo sostegno per fare pressione politica sul governo iracheno al fine di risolvere queste dispute interne, perché le radici di questo conflitto sono politiche e ora si è sviluppato e allargato fino a diventare una crisi umanitaria. Occorre quindi, prosegue l'arcivescovo, che i politici iracheni si riuniscano, parlino insieme e cerchino insieme una soluzione pacifica per fermare la violenza e le fughe. Occorre aiutare questa gente, i rifugiati, occorre aiutarli affinché tornino nelle loro case e si sentano sicuri. Questa è la richiesta più importante alla comunità internazionale, perché è già la seconda volta in un mese, ricorda, che sono costretti a lasciare le loro case. E oltre a questo, adesso abbiamo anche bisogno di aiuto umanitario urgente. Ci sono moltissime famiglie che non hanno nulla con sé e per aiutarle c'è bisogno di un intervento immediato della comunità internazionale. And right now also we do need humanitarian support. We have so many families just living with nothing, and it should be really a quick and effective response from the international community. E l'ultima domanda che ho fatto a Bashar Mativarda, arcivescovo di Erbil, è stata: qual è il sentimento generale della popolazione nella città? La gente ha più paura, ha più speranza? Concerning Christians, yes, they are desperate, hopeless. Per quanto riguarda i cristiani, sono più che altro, dice, disperati, molti di loro vorrebbero lasciare il paese. Ma noi cerchiamo di incoraggiarli a restare, di conservare la speranza. Non è certo la prima crisi che viviamo e proviamo a infondere loro un pensiero alternativo. Non penso che la città di Erbil sia in pericolo, perché c'è veramente un gran numero di persone a difenderla, ma il quadro triste è che la nostra comunità cristiana ha perso la propria fiducia in questa terra e nei propri vicini. E questa è la parte veramente più triste della storia. But the unfortunate picture is that our Christian community have lost their trust in the land and in the neighbors, and that's really the sad part of the story. E questo era Monsignor Bashar Mativarda, arcivescovo caldeo di Erbil. Stiamo lì a Erbil perché in diretta con noi c'è Marco Labruna, capo missione di Un Ponte Per. Buongiorno Marco Labruna, ben trovato a Nessun Luogo Lontano. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ci dia un po' un quadro della situazione anche dal vostro punto di vista. Che cosa state facendo? Che mezzi avete in campo? Quanto aiuto state riuscendo a portare alla popolazione a Erbil? Sì, buon pomeriggio. Allora, la situazione, queste le ultime parole del Vescovo, e la situazione è esattamente molto drammatica, come appunto veniva descritto. Noi negli ultimi giorni, in particolare ieri, siamo riusciti a fornire del supporto e assistenza ad altri ADPs sfollati che sono rientrati in Kurdistan dopo essere fuggiti dalle montagne di Sinjar, sono la comunità degli Yazidi in particolare, e che dalle montagne di Sinjar sono fuggiti in Siria e sono rientrati dal confine nord-occidentale in Kurdistan iracheno. Ieri siamo riusciti a mobilitare delle risorse per fornire una primissima assistenza in termini di cibo di cibo, per dare un supporto a queste persone che avevano marciato per molto tempo. Quindi questa è stata la nostra attività più recente nelle ultime ore. Allo stesso tempo abbiamo condotto delle distribuzioni sempre invece di generi di prima necessità per bambini, quindi pannolini, latte in polvere per degli sfollati a Dohuk, che è una città a nord del Kurdistan, e insomma stiamo facendo appunto del nostro meglio con le risorse limitate che abbiamo in questo momento per dare aiuto alla maggior parte maggior numero di persone possibile. Sì. Come Labruna, come la popolazione che state assistendo ha ricevuto e ha accolto la notizia dei primi raid statunitensi? Guardi, Ci sono opinioni contrastanti per quello che ho potuto vedere io a Erbil nei giorni scorsi, quando ci sono stati questi raid. Da alcune persone erano sollevate dal fatto di sentire queste notizie, altre, e mi sentirei di dire la maggior parte, sono allo stesso tempo invece preoccupate, perché comunque vuol dire, per loro è una storia che si ripete, all'infinito, di violenze e di continue violenze. Di più non, onestamente non mi sento di esprimere, perché siamo veramente molto concentrati sulla risposta umanitaria, quindi sulla risposta ai bisogni primari, più che all'analisi un po' politica della situazione. Chiaro. Senta, la Bruna, da 1 a 10 quanto vi manca in termini di attrezzature, in termini di aiuti veri e propri? Molto, direi che data l'entità dell'emergenza, direi che 8. Direi di sì, cioè si sta mobilizzando molto, però veramente la situazione è molto drammatica. Diciamo che ad oggi ancora non si riesce a fare un conto preciso di quante siano le persone, di dove siano, perché è un numero talmente elevato che ogni famiglia cerca rifugio dove può, e quindi per tutti quelli che noi siamo riusciti a identificare, la comunità internazionale si identifica, ce ne sono altrettanti che sono in estremo bisogno, ma o raggiungibili o in posti dove ancora non è arrivato l'aiuto. Quindi direi sì, il bisogno è grande. Grazie Marco Labruna, capo missione Un Ponte Per, era in diretta con noi da Erbil. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon lavoro a voi. Nessun luogo è lontano. (349) 238-6666, i vostri commenti via SMS. C'è chi dice: come sempre, appena toccano un cristiano, giù bombe da America ed Europa, invece massacrano siriani e palestinesi e nessuno muove un dito. Beh, i più cinici, potrebbero dire anche: non solo si tocca un cristiano, ma si va anche a toccare i pozzi petroliferi. Questo per essere cinici, eh. Allora, poi invece c'è chi mi punzecchiava sempre su Twitter e diceva: grazie per il chiarimento alla mia provocazione, sono ben conscio dei limiti della situazione, ma il pubblico ha bisogno di parole chiare, oltre che del gergo diplomatico. Ma insomma, fra l'altro a me sembra che il vice ministro Pistelli sia fra quelli che meno, come dire, si adagino sul gergo diplomatico. A me sembra che abbia espresso tutta l'intenzione dell'Italia, fatta salve le varie commissioni parlamentari che si riuniranno, di in qualche modo dare una mano ai Peshmerga. Però credo che sarà molto importante la riunione, il vertice a livello europeo di domani, perché è chiaro che più paesi europei daranno il loro semaforo verde, più sarà facile, no, avere un ombrello politico, una giustificazione per questo tipo di intervento. Ma ve ne darò conto, proprio domani. Allora, siccome il tempo stringe, vi faccio sentire un'altra voce, che è quella di Sébastien Douo, che è un monaco, è un monaco francese a Suleimania, lontano in realtà dal fronte più caldo, però anche Sébastien ha potuto tastare con mano, ha dovuto rimboccarsi le maniche, perché anche lì arrivavano i cristiani in fuga da Karakoş. Sentite. Allora, la situazione a Suleimani per la sicurezza va bene, perché Suleimani è la città curda la più lontana dal fronte, dalle zone di guerra tra lo Stato islamico e le forze armate curde, dunque stiamo bene fino adesso almeno. E anche la situazione per i profughi, insomma, abbiamo profughi, ma non è un disastro come in Erbil, come in Dohuk, dove ci sono migliaia e migliaia di profughi. In Suleimani è un po' più ragionevole come per il numero dei profughi. Abbiamo noi nel nostro monastero adesso, quando parlo, 70 profughi, dopo ci sono nella parrocchia della città, ce ne sono un po' di più in altri posti, tutto in tutto saranno 600-700. Invece in Erbil, soprattutto nel sobborgo di Erbil che si chiama Enkawa, che è un sobborgo cristiano di Erbil, c'è una pressione molto molto forte di un numero di profughi molto importanti, c'è gente che dorme nella strada, nei giardini, nelle chiese, dappertutto. Sì. Che cosa raccontano questi profughi quando arrivano? Da voi arriva gente da Karakoş, per esempio, che cosa hanno raccontato? Sì, la maggioranza che noi abbiamo ospitato sono venuti da Karakoş, ma dicono tutti la stessa cosa, è che la linea di fronte tra i curdi e lo Stato Islamico per un mese e mezzo era vicinissima a Karakoş, e alla fine i soldati curdi, dunque i Peshmerga, si sono ritirati dalla città durante la notte e hanno detto al vescovo: noi non possiamo rimanere qui, allora voi dovete andare. E dunque nella notte c'è stato il movimento di tutta la popolazione che se n'è andato via e che è andato verso Erbil o verso Dohuk principalmente. C'era anche gente che avevano lasciato la città prima. Questa avanzata di ISIS, questa avanzata delle forze dello Stato Islamico, secondo lei è inarrestabile? Secondo lei la comunità internazionale dovrebbe intervenire? Che idea si è fatto? Beh, inarrestabile non lo penso. Cioè, insomma, non c'è un esercito al mondo che sarebbe inarrestabile. Il problema è che questo Stato Islamico ha preso delle armi dell'esercito iracheno e anche dell'esercito siriano, ne hanno comprato tanto anche sul mercato nero, e dunque hanno delle armi apparentemente più sofisticate che le forze armate curde. Dopo il problema è anche un problema politico, è che in Iraq dal 2003 la comunità sunnita, i sunniti in Iraq si sentono, insomma, non hanno i loro diritti, sono discriminati da parte del governo centrale a Baghdad, che è un governo sciita. Chiarissimo. Mi perdonerà la domanda, è una sfortuna essere cristiani in questo momento in Iraq? Beh, è una sfortuna e nello stesso tempo è forse anche un'occasione di tornare alle radici del cristianesimo, di essere, insomma, profughi da una città a un'altra città, di domandarsi dove è il futuro e di non avere sicurezza altro che Dio, che la fede, che la speranza, che l'amore. È una sfortuna e anche una fortuna, perché per esempio qui a Saimani abbiamo visto un livello di solidarietà, di aiuto tra i cristiani locali e i cristiani che sono venuti da Karakoş, anche un livello di aiuto da parte dei curdi musulmani che sono stati gentilissimi con i profughi. Adesso abbiamo ricevuto una visita di un'ambulanza di un ospedale della città, non abbiamo domandato niente, loro sono venuti a trovarci per domandare se c'erano degli ammalati tra i profughi. E allora, e anche tutti questi profughi che vivono molto semplicemente in una aula, che si aiutano l'uno l'altro, che fanno la cucina insieme, insomma, anche nelle situazioni di crisi e di tragedia, perché è una vera tragedia, gente hanno perso case, ci sono stati alcuni morti anche, eccetera eccetera, anche al cuore della tragedia si scopre una forma di grazia. Speriamo bene per l'Iraq, per Karakoş, sì, per i cristiani e per tutti gli abitanti dell'Iraq. Non solo i cristiani dell'Iraq, ma anche le comunità cristiane in tanti altri paesi è stato l'obiettivo, è il caso di dirlo, di Linda Dorigo, fotografa e autrice appunto di Cristiani d'Oriente, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Linda, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Linda è autrice di questo progetto a quattro mani con Andrea Milluzzi, giornalista. Quali paesi, quante comunità avete visitato in questo progetto di lungo termine, Linda? Allora, il progetto mio di Andrea Milluzzi è iniziato nel luglio del 2011 e abbiamo viaggiato in Iran, in Iraq, in Libano, in Egitto, in Siria, Turchia e Giordania, e appunto siamo andati a conoscere le comunità cristiane del Medio Oriente, partendo appunto da presupposto di affrontare la tematica in quei paesi dove il cristianesimo è nato e si è sviluppato. Il progetto poi, l'obiettivo del progetto è stato quello di analizzare un po' e raccontare la quotidianità di queste comunità e non affrontare la tematica dei cristiani in Medio Oriente solamente quando ci sono delle notizie, comunque quando la vita di queste persone viene alla ribalta, quando ci sono delle notizie come può essere quello di queste ore, certo. In queste ore in Iraq, nel Kurdistan iracheno. Certo. Quindi insomma questo è stato un po' il nostro obiettivo e devo dire che poi anche il fil rouge che accomuna tutte queste comunità è la terribile paura di scomparire. In questo appunto mi appoggio anche quello che ha espresso l'arcivescovo di Erbil poco fa, che le comunità cristiane hanno perso, se non l'hanno già perso, lo stanno perdendo, la fiducia nella propria terra, la fiducia anche nei rappresentanti, non solo politici, ma anche molto spesso nei rappresentanti religiosi che dovrebbero proteggere queste minoranze religiose, comunque in una terra come quella della Mesopotamia, ecco. Sì. Fra l'altro noi dobbiamo ringraziarti perché Sébastien Douo, il monaco francese a Sulaimania, l'abbiamo raggiunto grazie a te, grazie ai tuoi viaggi e ai tuoi contatti. Fra l'altro eri lì credo un paio di mesi fa, no? Se ricordo bene. Io sono entrata poco meno di un mese fa dall'Iraq, dal sì. Kurdistan iracheno, ed è molto strano lasciare un paese. Ho lasciato comunque Bashika, sono entrata a Karakosh con i primi profughi che sono rientrati appunto a Karakosh dopo un primo attacco da parte dello Stato Islamico appunto meno di un mese fa, e la situazione sembrava tornata più o meno alla normalità. I cristiani sì. di Karakosh, e comunque tutta la popolazione di Karakosh, soffriva per la mancanza di acqua e di elettricità. Dobbiamo pensare che anche adesso in questo momento le temperature si aggirano intorno ai 50 gradi e quindi il caldo è devastante, e appunto abbiamo notizia degli asidi sulle montagne del Sinjar, molti di loro sono morti appunto per la mancanza di acqua, per la disidratazione, quindi la situazione è veramente drammatica. Linda, fra l'altro ricordo lindadorigo.com, cristianidoriente.wordpress.com sono le coordinate No. La coordinata è solamente quella del sito. Ok, lindadorigo.com allora. Sì. E lì sui progetti a lungo termine trovate appunto anche quello di Cristiani d'Oriente, dove è abbastanza difficile restituire radiofonicamente quello che è il lavoro fotografico, ovviamente. E poi c'è un libro in uscita, vero Linda? L'anno prossimo, sì, sarà edito con la casa editrice Shield Publishing. E vi terremo aggiornati. Grazie allora Linda Dorigo. Grazie, lo ricordo, Cristiani d'Oriente, scritto e scattato a quattro mani con Andrea Milluzzi, che indaga la vita quotidiana delle minoranze cristiane in tanti paesi del Medio Oriente. Sono le 16:57 34 minuti, vediamo, ho tempo per leggere un paio di sms. Allora, c'è chi dice: nessuno va a manifestare per questo disastro umanitario contro certi Islam, le piazze sono solo contro Israele, dice un ascoltatore che chiosa dicendo pacifismo italiota. Altri dicono, e mi provocano: a lei risulta che i cristiani di Iraq lancino razzi sui musulmani, a me no, ecco una differenza con Gaza. Non era questo il tema, in realtà. Ad esempio il viceministro Pistelli diceva: a Gaza la situazione umanitaria è molto molto peggio. Lì l'analogia con Gaza si è fermata lì. Direi che il tempo è quasi scaduto e allora i titoli di coda. E quindi non mi resta che ringraziare Nadia Zammitti, Mira Lucchetti che hanno confezionato con me questa puntata, Valeria Bernardi che le ha dato musica e ritmo, voi per essere rimasti all'ascolto fino a questo istante. L'appuntamento ovviamente è per domani alle 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.